Le tre tappe del cammino. Per giungere a qualche parte, prima bisogna prendere la strada giusta, poi bisogna mettersi a camminare. Infine, se la strada è lunga, bisogna mangiare durante il viaggio. Sono le tre cose che è venuta a raccomandarci caldamente di fare la Madonna a bel passo: conversione, confessione, comunione. Il 18 settembre dell'86 ci ha ricordato che nessuno è senza peccato. In conseguenza, tutti abbiamo bisogno di convertirci. La prima conversione è dal peccato grave e dalla vita mondana alla vita cristiana. La seconda conversione è dal peccato veniale e dalla tiepidezza al fervore. La terza conversione è dal fervore, nel quale è ancora possibile avere dei difetti, alla santità. Il 1 marzo dell'87 la Madonna disse: «Figli miei, aprite i vostri cuori. Voglio strapparvi dal male. Voi cadete spesso nelle tentazioni che ogni giorno Satana mette sotto i vostri occhi». Il 1 luglio dell'87 disse: «È giunto il momento di rendere la vostra vita diversa, mettendola alla luce del Signore Gesù. Non potete e non dovete essere così freddi ad un richiamo così dolce proveniente da Dio. Riflettete, non è forse Gesù morto per voi? Non è Gesù la via, la verità, la vita? Convertirci significa ancora trovare la strada giusta, ossia scoprire la nostra vocazione. Scopertala, ci resta da scoprire come santificarci in essa». Il 1 dicembre dell'87 ci dice che per scoprire la volontà di Dio dobbiamo molto pregare e fare penitenza per non cadere in errori. Il 1 novembre dell'87 ci dice: «Vi voglio tutti santi, miei cari figli». Confessione e comunione. Quasi in tutti i messaggi la Madonna ci raccomanda di confessarci e di comunicarci. Addirittura il 1 giugno dell'87 dice: «Non rifiutate i sacramenti della confessione e della comunione, perché così rifiutate di salvarvi». Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù disse: «Io sono il pane di vita. Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Naturalmente bisogna confessarsi bene, cioè dire tutti i peccati che si ricordano e soprattutto averne un grande dispiacere, perché con essi abbiamo tanto addolorato Gesù, al punto che Egli ha tante volte versato lacrime di sangue i recenti prodigi. Quando c'è un vero dolore è difficile ricadere nei peccati. Poi bisogna comunicarsi bene, cioè in grazia di Dio, con raccoglimento e con amore. Dice San Paolo: «Chiunque mangia questo pane e beve il calice del Signore indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ognuno dunque esamini se stesso e così mangi di quel pane e beva del calice. Perché chi mangia e beve senza discernere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna». Thank you. Vangelo. La Madonna nei suoi messaggi, dati a bel passo, raccomanda tante volte di leggere il Vangelo ogni giorno e conclude ogni suo messaggio con queste parole che per brevità trascriviamo una volta sola. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre sia nelle vostre menti, il Figlio nei vostri cuori, lo Spirito Santo nelle vostre anime. Il Vangelo, parola di Dio, sia nelle vostre menti, sia la vostra parola, ma soprattutto sia scrittura nei vostri cuori. Per ripetere queste parole in ogni messaggio, esse debbono avere un significato profondo che la Madonna vuole imprimere nelle nostre anime. Il Padre sia sempre nelle vostre menti, cioè dobbiamo pensare durante il giorno sempre a Dio. Il Figlio nei vostri cuori, cioè dobbiamo sempre amarlo. Lo Spirito Santo nelle vostre anime, cioè dobbiamo vivere sempre in grazia di Dio. Il 1° gennaio dell'88 disse: «Portate la parola del Vangelo per le strade, in famiglia e in tutto il mondo, perché l'unico faro, l'unica vita e via è mio Figlio, il Redentore, il Salvatore, il vincitore degli inferi nell'infinità dei secoli». E il 1° febbraio dell'88 disse: «Molti hanno dimenticato che essere veri cristiani significa annunziare la buona novella. Molti si dicono cristiani e non si accorgono che essi stessi sono causa della perdita della fede. Ognuno di voi dovrebbe radicare bene la propria fede per poi convertire il prossimo. Andate ed evangelizzate, non abbiate timore, perché il mio cuore sarà sempre con voi». Preghiera. La Madonna a bel passo ha raccomandato la preghiera in tutti i messaggi e con un'insistenza impressionante. Il 1° settembre dell'87 disse: «Date sempre una maggiore importanza alla preghiera, impiegate più tempo per Dio». Il motivo è molto semplice. Ella stessa disse a Medjugorje: «Chi non prega è ateo, cioè non a Dio», e disse Sant'Alfonso: «Chi prega si salva, chi non prega si danna». Per questo la Madonna vuole che preghiamo e che preghiamo tanto. Pregare, infatti, non è altro che pensare a Dio amandolo. Per questo la Madonna il 1° agosto dell'87 disse a Rosario: «Che l'anima vostra abbia sete del Signore». E per questo ancora, ella raccomanda di pregare molto e di fare la preghiera di lode, di riparazione, di ringraziamento e la preghiera per gli altri. La Madonna raccomandò di recitare ogni giorno molti Padre Nostro, di pregare almeno 3 ore al giorno e di recitare molti rosari ogni giorno, almeno 3. E aggiunge: «Siate pieni dello Spirito del Signore, invocate il suo Spirito, egli vi riempirà di grazia con i suoi doni. Aprite i vostri cuori a Dio, invocate lo Spirito Santo, perché solo così potrete santificare le vostre anime». Il 18 giugno dell'86 disse nel messaggio: «Non pensate che Dio non esista. Dio è sempre stato e sempre sarà. Egli vi ha creato per un atto di amore, di misericordia e di bontà. Adoratelo, lodatelo, glorificatelo e pregatelo di darvi la grazia di godere il premio eterno. Il 1° dicembre dell'87 disse: «Sappiate che quando pregate voi siete molto più belli. Come i fiori in primavera vi mostrate più belli. Il vostro cuore si apre al Signore e per Lui diventate molto più preziosi di prima, a tal punto che siete degni del paradiso». Il 1° novembre dell'87 raccomandò che prima di chiedere qualunque grazia al Signore, prima di fare qualunque preghiera, è necessario riconciliarsi con Dio, se abbiamo qualche peccato, con un sincero atto di dolore. Preghiera di riparazione. La Madonna a Belpasso quasi sempre è apparsa triste, tante volte piangente, e ne dice il motivo. Il mio pianto si unisce a quello del mio figlio, tanto addolorato. Piango per la povera umanità, per il mio figlio continuamente offeso. Piango perché il Redentore piange e continuerà a piangere a causa dei vostri peccati. Ci sono troppi peccati con i quali Gesù è offeso. Ancora oggi il mio cuore è trafitto dal peccato. Ancora oggi il cuore del mio figlio è trafitto dal peccato. Offrite riparazione. Ve lo chiede la vostra madre, desiderosa della pace nel mondo. Uno dei più orrendi delitti è l'aborto. Per esso ogni anno vengono assassinati nel mondo circa 20 milioni di bambini. E l'8 dicembre dell'87 disse: «Sono 5 le offese dirette al mio cuore. Le bestemmie contro la mia immacolata concezione, contro la mia verginità, il rifiuto di riconoscermi madre di Dio e degli uomini, l'opera di coloro che infondono nel cuore altrui l'indifferenza e l'odio contro di me, l'opera di coloro che mi offendono direttamente nelle mie immagini sacre». Il popolo cristiano, il popolo prediletto e più beneficato da Dio, copre Dio benedetto, Gesù crocifisso per noi, la sua Santissima Madre, di una moltitudine di bestemmie e di infami insulti. Per questo la Madonna chiede, l'8 dicembre dell'87, preghiere, riparazione, penitenza, e aggiunge di digiunare molto spesso. Per tale motivo la Madonna, oltre ad insistere in ogni messaggio sulla preghiera, ha chiesto specificatamente ai noi suoi figli di fare ogni venerdì un'ora santa riparatrice, dal messaggio del 1 agosto dell'87. E il 1 marzo dell'88 disse: «Prendete un crocifisso e baciatelo ripetutamente con tanto amore e con immensa devozione. Fate ogni giorno l'adorazione a Gesù crocifisso». Il Santo Rosario. Una delle cose che la Madonna raccomanda caldamente in tutte queste apparizioni è la recita del Santo Rosario. Quasi in ogni apparizione raccomanda di recitarlo quotidianamente. Varie volte raccomanda di recitarne tanti ogni giorno. Anzi, il 1 ottobre dell'87 raccomanda di recitarne molti al giorno, ma almeno 3. La Santa Messa. Nella maggior parte dei suoi messaggi a Belpasso, la Madonna raccomanda di frequentare i sacramenti, di partecipare alla Santa Messa più volte alla settimana. Nel messaggio del 1 marzo dell'88 disse: «La Santa Messa è il compendio delle meraviglie che Dio ha operato con gli uomini. Partecipare ad essa vuol dire assistere al grande sacrificio della passione e morte di Gesù. Nella Santa Messa si contemplano e si celebrano i grandi misteri di Dio. Non c'è niente di più prezioso nella terra della Santa Messa e niente di più utile per noi e per l'umanità nella giornata che l'assistere alla Santa Messa. Ed è per questo che la Madonna ci esorta ad andare a messa non solo la domenica, ma quando ci è più possibile anche ogni giorno». Il ritorno di Gesù. Varie volte la Madonna in questi suoi messaggi, dati a Belpasso, accenna al ritorno di Gesù. 1 marzo dell'87. Convertitevi presto, non c'è molto tempo. 1 ottobre dell'87. Preparatevi, perché i tempi sono maturi. Il 1 novembre dell'87 la Madonna disse: «Siate consapevoli della sua imminente venuta». E il 1 febbraio dell'88 la Madonna disse: «Oggi siete stati chiamati ad un compito particolare che Dio nella sua misericordia ha voluto affidarvi, annunciare al mondo la sua imminente venuta». Il Signore vuole, come disse la Madonna in questo messaggio del 1 marzo, che noi annunziamo al mondo il lieto evento del suo imminente ritorno. La Madonna al Belpasso ci ha dato la consolazione che il ritorno di Gesù è vicino.